Sorridel, beata, esce lo strutto, naso cordele, orecchie, suene. Ladro di gemme, ancora profano, scava nell'ara, in cerca di perle. Morta mi scrive. Con chiusa faccenda, aspra lacrima, trattenuta stenta. Sentimento. Porta miscrivere. No, non è vero, solo una porta, una delle tante, quella reale. Esiste nel cielo niente che valga la pena fatale, dannazione perpetua. Porta miseria.